Eccoci qua, cari amici ascoltatori di Radio Big World, che state viaggiando insieme a noi attraverso le nostre memorie e le nostre esperienze su e giù per l'Inghilterra alla ricerca dell'isola di Wight, perché non dimentichiamocelo, questo è il nostro focus. Ieri eravamo a Bath, ci siamo lasciati più o meno all'ora del tè. Io ero solo e non sapevo dove era il mio socio, ma dove mai sarà stato il mio socio? Sono uscito dall'albergo e guarda un po', lì vicino c'era lo stadio di rugby del Bath. È una squadra importantissima nella Premier League inglese di rugby e per l'appunto ieri c'era una partita e il mio socio l'ho ritrovato al pub degli sportivi insieme ai tifosi di una squadra del Galles che erano a giocare a Bath una partita amichevole. Ma non era solo, aveva già fatto amicizia con un signore che si presentava circa un settantenne, tutto sdentato, un tipico settantenne inglese molto simpatico che portava con sé due grandissime bandiere. Stavano andando a vedere appunto la partita e erano circa 4 o 500 i tifosi gallesi che erano giunti a Bath per assistere al match amichevole di rugby. Ma socio, raccontaci un po' di Phil. Posso parlare? Arrivati in questo pub, ci ha aiutato anche il fatto che era una giornata piovosa, quindi il primo posto ci siamo rintanati dentro. E c'era appunto l'afflusso di tutti i tifosi di questa squadra gallese con i colori rossi più o meno, rosseggianti, con un nome che non mi ricordo, Spectral, così. E insomma, un sacco di signori, c'era un sacco di sportivi, ecco, stavano arrivando tutti che bevevano, donne, uomini, famiglie, bambini, neonati e tutto. Appena ho visto questo signore con queste due bandiere ho detto, questo è uno che mi manda di sicuro. Che ho cercato di avvicinarlo, molto simpatico, disponibile, si è fatto un po' di chiacchiere e mi ha spiegato questo torneo internazionale di amichevoli che raccoglie varie squadre, varie nazionalità, anche sudafricane, insomma, ieri pomeriggio per un amichevole, ieri sera per un amichevole erano previsti 600 tifosi ospiti, meno male era un amichevole. In effetti a noi c'era quasi venuta la voglia di andare ad assistere con loro a questa partita di rugby, ma non è stato possibile perché lo stadio era tutto esaurito. Quindi cosa abbiamo fatto? Non ci siamo persi di animo e siamo andati a cercare un buonissimo fish and chips che avevamo adocchiato qualche ora prima nei pub e avevamo effettivamente idea di mangiare quello, ma purtroppo, ahimè, il posto dove lo avevamo visto fare chiude la cucina dopo il pranzo e quindi non è stato possibile, ma questo ci ha permesso di aggustare un piatto tipico inglese, ovvero una specie di torta salata, di budino salato che loro chiamano meat pie, con dentro il pollo oppure il manzo. Era una cosa effettivamente particolare e effettivamente molto buona. Era la prima volta che lo mangiavo ed in effetti sono rimasto molto contento. La serata poi è continuata alla grande in giro per locali e finalmente abbiamo anche trovato un locale specializzato in gin dove non servivano birra e per cui abbiamo anche deciso di farci il bicchiere della staffa con un buonissimo gin tonic e gin lemon che effettivamente in Italia così buono non l'avevo mai assaggiato. Insomma, Bath è stata un'esperienza molto carina, è stata un'esperienza interessante e come ho detto nella puntata ieri, la città merita di essere visitata un po' sia per la sua parte turistica, se volete essere spennati, e se invece volete fare le stesse cose più o meno a prezzi più umani ed onesti, giratela un po', cercate i localetti nelle viuzze e vi troverete assolutamente bene. Ma insomma, stamani di buon'ora siamo ripartiti alla volta di Southampton e adesso siamo già qua nel giardino della Circle Guest House perché stiamo andando niente poco di meno che allo stadio per assistere all'incontro di Premier League Southampton-Leicester. Abbiamo, credo, tutti i passaggi fatti giusti dall'Italia, biglietti acquistati, documenti con noi e ci auguriamo che tutto funzioni. Ma bando alle ciance, adesso è il momento di andarsene a girellare per la città, visitarla un po' e addirittura ad assistere per la prima volta in vita mia, che mi sembra una cosa incredibile, ad una partita di Premier League. Ci aggiorneremo come sempre sulle frequenze di Radio Big World per la prossima puntata alla ricerca dell'isola di Wight. Ragazzi, ci siamo vicini e in questi giorni probabilmente ci arriveremo. Pensate che da Southampton, se non lo sapete ve lo diciamo, partì il Titanic. Questo è un grande porto dove partono tanti traghetti locali e di linea, ma anche tantissime crociere, come appunto fu l'allora Titanic, viaggi addirittura intercontinentali. Pare che per arrivare all'isola di Wight sia stato necessario essere qua. La vita di qualcuno è cambiata a Southampton, chissà se anche la nostra cambierà? Ve lo diremo nelle prossime puntate della nostra ricerca per l'isola di Wight. Grazie a Radio Big World, grazie a tutti gli ascoltatori, ci sentiremo alla prossima puntata. Yeah.